Da il senso delle cose di Dio. Una volta stabilito che la Bibbia sia la parola di Dio, non vi può essere argomento d'esame più importante e interessante studiando le scritture di un'indagine sui principi, sulle leggi e sui metodi della sua interpretazione. Infatti, leggendo la Bibbia, è estremamente importante ricordare che si sta leggendo una raccolta di libri, il più giovane dei quali ha quasi 2000 anni. Non si può quindi pretendere di leggerla come fosse un romanzo, né dare alle parole in essa contenute sempre un significato attuale. Siamo tutti coscienti che certe espressioni o parole mutino il loro significato nel tempo, e già questo dovrebbe rendere ogni figlio di Dio attento e rispettoso verso il testo biblico. Prendiamo come esempio la frase «andiamo in chiesa». Prima dell'epoca costantiniana nessuno l'avrebbe pronunciata, per il semplice motivo che, prima del IV secolo, non esistevano edifici adibiti ad uso ecclesiastico nell'ambito cristiano. Infatti, per i primi cristiani la chiesa era la somma dei veri credenti, mentre oggi la stessa parola indica un edificio. Un'altra parola, il cui significato si è mutato nel corso dei secoli, è santi. Per i primi cristiani, i santi erano tutti credenti, giustificati in Cristo, mentre, per la religione cattolica, i santi sono coloro che hanno vissuto una vita particolarmente vicina al Signore. La Bibbia, benché sia la parola di Dio, rimane tuttavia anche un'opera letteraria, e come tale, essa è soggetta a regole e metodi di interpretazione che gli studiosi chiamano ermeneutica. Cos è l'ermeneutica? Etuma l'arte di interpretare il senso d'antichi testi o documenti. Cosa significa interpretare? E il modo di leggere un antico testo per rilevarne l'attinenza con l'epoca attuale. Questo ci porta a comprendere un insegnamento vecchio di millenni e a tradurlo, cioè a renderlo pratico, attuale, comprensibile al lettore d'oggi. Come esempio, ricordiamo l'ordine di Dio in Levitico di non maledire il sordo, Levitico 19:14. È evidente che il comandamento non fosse inteso solo nel senso di non maledire, non dire male, chi non avesse il dono dell'udito. L'applicazione pratica è quindi quella di non parlare male di chi non sia presente e che, quindi, per questo non può sentire. Vi sono delle regole per interpretare correttamente e coerentemente la parola di Dio. Prenderemo in considerazione alcuni principi indispensabili, senza i quali, oltre ad arrivare a conclusioni sbagliate, si mancherebbe di rispetto verso colui che ha voluto far conoscere il suo pensiero. 1. Il senso della scrittura va trovato nel significato grammaticale delle parole. Il rispetto del senso grammaticale costituisce la regola fondamentale nello studio di tutti i libri. La Bibbia, benché, ed a giusto titolo, riverita come il libro dei libri, resta pur sempre un libro. In essa sono presenti la metafora e il simbolo, ma questo non giustifica, né tantomeno richiede, l'abbandono del principio dell'obbedienza al senso grammaticale. Leggiamo in Matteo 16, 13-19. Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia?» Ed essi dissero: «Alcuni, Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti». Egli disse loro: «E voi chi dite che io sia?» E Simon Pietro, rispondendo, disse: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù rispondendogli disse: «Tu sei beato, o Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli». Questo episodio è forse uno dei più famosi. Dopo la confessione di Pietro, Gesù gli disse: «Tu sei Pietro, e sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa. Questa affermazione è stata, ed è tuttora, oggetto di discordia tra cattolici e protestanti. Possibile, mi sono chiesto. Ma, come spesso succede, quando la parola di Dio è oggetto di discussione, ciò si deve a dei preconcetti sbagliati. Un giorno, spiegavo ad un gruppo di persone questo brano della scrittura. Vi erano persone semplici, operai, ingegneri, laureati, e una mamma con una bambina. Quando chiesi su cosa Gesù avesse fondata la sua chiesa, ci fu un attimo di silenzio imbarazzante. Poi seguirono alcune risposte preconfezionate, altre insensate. Ad un tratto la bambina, apparentemente disattenta, rispose, sulla pietra. Essa aveva afferrato il senso grammaticale. La chiesa è fondata sulla pietra. Perciò, qualsiasi interpretazione che noi diamo all'affermazione di Gesù non può scostarsi da questo aspetto fondamentale. 2. La scrittura si interpreta con la scrittura. Interpretare la scrittura con la scrittura è una regola indispensabile, soprattutto là dove occorra dare un significato preciso alle parole. Prendiamo come esempio la parola pietra, contenuta nell'affermazione di Gesù sopracitata. Tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Essendoci varie interpretazioni in relazione alla parola pietra, occorre, saggiamente, confrontare altre parti della scrittura che citino questo termine. Così leggiamo che lo stesso Pietro e anche l'apostolo Paolo vedono nella pietra angolare, che costituisce la chiesa, la stessa persona di Gesù Cristo. Ho deposto dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie ed ogni maldicenza, come bambini appena nati desiderate ardentemente il puro latte della parola affinché per suo mezzo cresciate, seppure avete gustato che il Signore è buono. Accostandovi a Lui come a pietra vivente, rigettata dagli uomini ma eletta e preziosa davanti a Dio, 1 Pietro 2:1-4. O voi dunque non siete più forestieri né ospiti ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito, Efesini 2:19-22. Non vi è dubbio che, per i primi cristiani, la pietra angolare sulla quale posava la loro fede fosse Gesù. È possibile che ancora oggi si possa discutere su questo? 3. Un testo, preso fuori dal contesto, diventa un pretesto. Qualsiasi definizione biblica, presa fuori dal suo contesto, può portare a conclusioni contrarie al suo significato. Citando un versetto della Bibbia, posso anche arrivare a dimostrare che essa affermi che Dio non esiste, Salmo 14:1. Ma il contesto, da cui avrò estrapolato il suddetto versetto, mette in evidenza che questa affermazione provenga da uno, definito dalla Scrittura stessa, stolto. Così, succede spesso di ascoltare delle argomentazioni su passi biblici motivate da pretesti, per sostenere tesi preconcette. I testimoni della Torre di Guardia attribuiscono a loro stessi il numero dei 144.000 di Apocalisse 7:4, ma il contesto cita a proposito le 12 tribù di Israele. Ignorandone il contesto, i 144.000 potrebbero essere qualsiasi gruppo religioso, o anche politico, oppure sociale. Lo stesso dicasi per le asserzioni di Gesù. Voi siete il sale della terra. Voi siete la luce del mondo. Matteo 5:13. I figli di Dio ritengono solitamente rivolte a loro queste parole, ma tenendone presente il contesto, si intuisce che Gesù si riferisca a coloro che sono puri di spirito, di cuore, i mansueti, i misericordiosi, coloro che sono perseguitati a causa della giustizia. si può essere figli di Dio e non essere la luce del mondo né il sale della terra. 4. Conservare il senso letterale. Ovunque lo permetta l'armonia della scrittura e non lo vieti la ragione, quella che non altera il senso letterale, resta, sempre, l'interpretazione più onesta e, 9 volte su 10, quella più razionale e significativa. Affermando che la Bibbia debba essere interpretata letteralmente, non si vuole sostenere che essa non contenga elementi metaforici, ma, semplicemente, che quando uno scrittore impiega una metafora, il testo debba essere sì compreso in forma metaforica, ma il suo significato metaforico è, contemporaneamente, anche il suo significato letterale. Leggiamo per esempio nel libro del Cantico dei Cantici: «O mia sorella, o sposa mia, tu sei un giardino serrato, una sorgente chiusa, una fonte sigillata», 4 e 12. Alcuni cristiani, nella lettura di questo libro, si trovano in imbarazzo, per cui allegorizzano o spiritualizzano ogni affermazione. Come disse qualcuno, la piacevole arte dell'allegorizzare è dura a morire. È vero che una moglie non è un giardino, né una sorgente chiusa, né una fonte sigillata, nel senso che noi intendiamo. Rimane però vero il significato letterale che scaturisce dall'allegoria, e cioè che una moglie è un bene, giardino, sorgente, fonte, una benedizione personale, chiuso, chiusa, sigillato. Non far rispettare all'interpretazione allegorica questo principio essenziale significa far dire al testo ciò che questo non sia teso a denunciare. Anche nel passo di Matteo 16:18 possiamo notare come sia indispensabile conservare il senso letterale. Tu sei Pietro, e sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa. Gesù è la pietra angolare della chiesa, non nel senso che sia veramente una pietra, cioè un minerale, ma egli ne resta la pietra, comunque a tutti gli effetti. Su di lui è costruita la chiesa, essendo egli stesso la pietra angolare, cioè quella su cui poggia tutto l'edificio. Egli è, in sintesi, la base sicura su cui appoggiare, il piede della fede. Anzi, l'immagine della pietra è inferiore al significato di ciò che di fatto Gesù rappresenta per la Chiesa. 5. Distinguere a chi sia rivolto il messaggio. Come è vero che non bisogna fare di tutte le erbe un fascio, così occorre, di volta in volta, considerare il destinatario al quale sia rivolto il messaggio. Un giorno Pietro, nell'udire una parabola, chiese: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?» Luca 12:41. Egli era cosciente che le parole di Gesù non fossero rivolte, sempre, a tutti. Così, l'ordine di Gesù, rivolto al giovane ricco di vendere ogni cosa, non può essere esteso a chiunque, Matteo 19:21. Ma ciò che è richiesto a tutti i credenti è compiere buone opere, 1 Timoteo 6:17-19. Ad esempio, la chiamata ad evangelizzare rivolta a Paolo, essa non può essere ovviamente estesa a tutti, Atti 9:15 e 1 Corinzi 9:16. Mentre il compito di ogni cristiano è di essere un testimone, 1 Pietro 3:15. È molto pericoloso quindi leggere la parola di Dio, applicandone promesse e chiamate ad ogni figlio di Dio. Un giorno lessi la testimonianza di un credente che era stato convinto dallo Spirito ad evangelizzare ogni giorno una persona nuova, fondando questa personale convinzione su ciò che aveva letto nel Salmo 96:2. Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. Colpito da tale zelo, mi misi in cuore di imitarlo. I primi giorni parlai ai miei compagni di lavoro, ma ben presto tutti avevano udito la parola di Dio. Una sera uscii da casa e distribuì degli opuscoli. Un'altra sera mi ricordai della promessa che mi ero fatto quando ero già a letto. Mi alzai e uscii a distribuire qualche opuscolo. La cosa però mi insospettì, perché ciò che mi ero prefissato stava diventando un peso non indifferente, a causa del quale potevo anche ammalarmi. Compresi allora che io non dovevo imitare i figli di Dio, ma dovevo aspettare la chiamata al servizio. Nella serenità e nella pace, trovai il mio posto nel campo di Dio. Se è sbagliato non servire Dio avendone udito la chiamata, è, altresì, sbagliato servire nel campo di Dio quando non c'è è la chiamata, o servirlo in un campo non adatto. Per dimostrare quanto non sia facile comprendere la parola di Dio, porto la mia testimonianza. Subito dopo la mia conversione, la felicità più grande è stata quella di poter leggere e comprendere la parola di Dio. Ma la gioia della lettura a volte era disturbata da un particolare. Trovavo in essa delle contraddizioni, soprattutto nei Vangeli. Ricordo che, un giorno, leggendo l'Evangelo di Giovanni, notai che, dopo la moltiplicazione dei pani operata da Gesù, alla fine avanzarono 12 ceste. Più tardi, leggendo l'Evangelo di Marco, considerai che le ceste avanzate, in seguito alla suddetta moltiplicazione, fossero 7. Per me era una contraddizione. Ma problemi del genere erano risolti con una costante lettura della Scrittura. E, ben presto, mi resi conto che Giovanni e Marco narravano 2 miracoli diversi. Ora posso anche sorridere per questa mia ignoranza. Leggere, però, la Bibbia col continuo dubbio che essa contenga delle contraddizioni non permette di riceverne il giusto beneficio. Così, nei primi anni della mia vita cristiana, l'unico modo che mi consentì di proseguire la lettura alla parola di Dio tranquillamente fu quello di accantonare i problemi, in fiduciosa attesa che fossero, nel tempo, risolti. Avere un simile atteggiamento è saggio, altrimenti nessuno leggerebbe la Bibbia. Se però un problema diventa un vero ostacolo, occorre risolverlo. Fu così che un giorno, nel leggere i Vangeli, scopersi quella che per me era la più grande contraddizione che avessi mai trovata. Essa era costituita dalle diverse iscrizioni affisse sulla croce di Gesù e riportate dai 4 evangelisti. Avevo trovato l'ostacolo per il quale non mi era più possibile leggere serenamente la parola di Dio e non ero più libero di predicarla. Ed ecco le 4 iscrizioni. Matteo 27, 37. Questo è Gesù, il re dei giudei. Marco 15 e 26. Il re dei giudei. Questo è il re dei giudei. Luca 23 e 38. Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Giovanni 19 e 19. Ero confuso. Non riuscivo a convincermi che si trattasse di una questione di interpretazione. Non poteva certo trattarsi di qualcosa di opinabile. Una scritta è un fatto oggettivo, non può essere alterata nella sua essenza da vari punti di vista. Era scritto in un modo o in un altro. Chi aveva ragione? Parlai con alcuni fratelli, ma non ebbi nessuna spiegazione convincente. Ne parlai con altri più anziani, commissionari, ma nessuno sapeva darmi una risposta. Infine qualcuno azzardò una spiegazione. Poiché la scritta era in ebraico, in greco e in latino, Giovanni 19:20, le differenze potevano derivare dalla traduzione. Ma io non ero per niente soddisfatto. Non sapendo più dove rivolgermi, invocai il mio Signore pregando: «Se tu mi risolvi questo problema, io non dubiterò mai più dell'ispirazione della tua parola». Poco dopo, egli mi esaudì e, senza rendermene conto, mi fu rivelata la più elementare regola per una corretta comprensione della scrittura: l'armonia scritturale. Armonizzare un testo scritturale con il resto della rivelazione di Dio è senz'altro la regola per eccellenza. E, per far questo, occorre l'ausilio di altri fattori. Occorre tener presente il contesto, avvalendosi del lato storico, culturale e linguistico. Un altro fattore è la disposizione o l'atteggiamento con cui leggiamo la parola di Dio, accostarci a essa con fede, studiarla con impegno e accettarla con sottomissione. Un terzo fattore sono i pericoli ai quali si va incontro. Dobbiamo tener presente le imperfezioni scritturali, dobbiamo saper distinguere le parole della scrittura, dobbiamo guardarci da interpretazioni che siano il frutto di preconcetti personali o comuni. Solo con queste premesse, la parola di Dio, illuminata dallo Spirito Santo, può parlare alla nostra mente e al nostro cuore. Dobbiamo avvicinarci ad essa con uno spirito di umiltà ed essere consapevoli di appressarci a pensieri che non fanno parte della nostra logica. Isaia 55, 8, 9, 1 Corinzi 2, 9. L'unico vero spirito dello studio biblico si esprime nella prontezza a credere ad ogni promessa senza riserve, ad ubbidire ad ogni comando senza esitare, ad essere perfetti e completi in tutta la volontà di Dio. Ogni volta che cerchiamo la spiegazione di un testo, leggiamo attentamente il brano in cui il testo stesso si è inserito. Rileggiamo e preghiamo. Impariamo a conoscere il cuore di Dio nelle parole di Dio. Febbraio 2003. Ellero,